e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Finalmente riprendi il tuo posto qui di fronte a me. Ieri ti dovevo così adorare a distanza da quel monitorino là. Non hai messo una foto? No, il santino. Il santino, mi sono raccolta in preghiera lì davanti perché non c'eri. Bentornata, allora ripartiamo anche oggi. Grazie. Abbiamo una bella agendina per i nostri ascoltatori stamattina. Io parlerò di borsa, parlerò di affitti cedolare secca e poi parlerò soprattutto di questa grandissima operazione finanziaria che sta maturando in queste ore, l'operazione di Banca Intesa San Paolo su Generali, con tutte le ricadute sul mondo assicurativo. Soprattutto io spiegherò ai nostri ascoltatori, proveremo Nicoletta a spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è la banca assicurazione in Italia. Mi piace, allora partiamo? Partiamo subito. Mercati finanziari ancora in fibrillazione questa mattina, un po' in Europa perché provano a digerire intanto tutto quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Ieri Wall Street ha registrato ancora una volta un vero e proprio rally che si è concentrato nel settore delle materie prime e in quello energetico. Rally che ha spinto su nuovi massimi il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici americani e lo Standard & Poor's 500. Gli investitori sembrano di nuovo disposti a scommettere su Donald Trump, il neopresidente americano, il cui obiettivo resta quello di creare occupazione negli Stati Uniti. Anche per questo ieri ha incontrato gli amministratori delegati dei produttori di auto Fiat Chrysler, quindi marchionne, General Motors, a cui ha promesso meno regole, meno tasse ed un contesto imprenditoriale più amichevole, sempre naturalmente che queste aziende decidano di mantenere i loro stabilimenti produttivi negli Stati Uniti e possibilmente decidano di costruirne altri. Oggi arrivano molti dati macro dagli Stati Uniti, si è riaperta la stagione delle trimestrali, ma per i più curiosi vado subito a raccontare cosa succede in Europa. Questa mattina abbiamo una situazione capovolta rispetto a ieri. Ieri Milano era regina della seduta in Europa, aveva un rialzo di oltre un punto per il volo di Generali e Mediobanca. Oggi invece guadagna ancora terreno, più 0,37%, ma le altre guadagnano di più. Parigi più 1,06%, Francoforte più 1,25%, Londra più 0,59%. Ieri Londra, tra mercato azionario e sterlino, un po' di fibrillazione dopo la decisione della corte appunto britannica, dell'alta corte britannica, che ha detto alla signora Theresa May su Brexit: dati una calmata perché deve decidere appunto il Parlamento. Giù la cresta. Titoli bancari e finanziari di cui parliamo tanto in questi giorni ancora sugli scudi stamattina. Oggi tocca a Unicredit prendere il volo, più 5,5%, poi Mediobanca più 4%. Direttamente appunto interessate alla partita che si sta giocando in queste ore, peraltro tutti i vertici di tutti i grandi gruppi bancari e finanziari italiani, quindi a partire da Generali, Intesa San Paolo, Unicredit, Mediobanca, sono stati convocati dalla Consob perché sta facendo questo giro di consultazioni per capire un po' in che modalità hanno intenzione di muoversi. La modalità è abbastanza chiara per Intesa San Paolo, che ieri sera è venuta allo scoperto e ha detto: siamo pronti a valutare queste operazioni industriali appunto che abbiano come oggetto Generali. Noi ne parliamo soprattutto nella seconda parte della trasmissione delle 11.30 per capire un po' di che tipo di soggetto nascente stiamo parlando. Questi un po' i temi finanziari, ma direi di andare subito al nostro piccolo primo approfondimento di stamattina. E lo dedichiamo a tutti coloro che sono proprietari di un appartamento e che hanno scelto di affittarlo. Sappiamo che in molti casi si tratta di un'esperienza nuova, perché si prende, no? Nicoletta, certo, questa decisione, o magari su una casa di famiglia che sia lì ereditata, costa perché il fisco è pesante, come sa bene il nostro ospite questa mattina, perché viene sempre a darci queste belle notizie, la fiscalità sulla casa, come si muove. Cristiano Dell'Oste, ciao, benvenuto. Buongiorno. Allora, o perché abbiamo scelto magari di fare un investimento, non ci piacciono i titoli di Stato, non ci piacciono le azioni, ci piace ancora il mattone, investo sul mattone e questa affitto. Seconda casa l'affitto. Però non è sempre facile fare amicizia e prendere dimestichezza con gli aspetti burocratici e fiscali. Talvolta si fanno anche degli errori e si prende anche qualche batosta, perché poi quando si tratta di rimediare il fisco ci trova sempre subito e ci fa pagare tutti gli arretrati del caso. Allora, oggi parliamo di un tema, di una parola che molti ascoltatori conosceranno molto bene, perché hanno optato per questo regime fiscale, quello della cedolare secca sugli affitti. Ci sono alcune novità in questo ambito, appunto Cristiano è venuto a trovarci proprio per raccontarcele, perché è stata approvata da poco una norma che rimedia alle sviste di quei contribuenti che si dimenticano di comunicare al fisco la proroga della locazione. Quindi velocemente avete 5-6 minuti di tempo se volete per farci delle domande su questo tema all'800 24 00 24. Se siete proprietari di un appartamento che affittate e avete scelto la formula della cedolare secca per il pagamento delle tasse, siamo qui pronti stamattina per voi. Prima di tutto però, Cristiano, riassunto delle puntate precedenti: chi, come, dove, quando e perché, come è stata introdotta la cedolare secca e quando? Sì, allora la cedolare secca è stata introdotta nel 2011 nell'ambito del cosiddetto federalismo fiscale. Consiste in una tassazione sostitutiva che riguarda i redditi che si ricavano dalla locazione di abitazioni, dall'affitto di case. Può essere scelta soltanto dai proprietari che siano privati, per intenderci, cioè persone fisiche che non esercitino un'attività di impresa. E è appunto un'imposta sostitutiva che ha due aliquote, al 21% sui contratti a canone libero, al 10% su quelli a canone concordato. Questa aliquota del 10% peraltro è temporanea, dura fino alla fine del 2017 salvo proroga, poi quella a regime è al 15%. Cioè è questa del 10 che diventa al 15 o tutte diventano no, del 15? No, quella del 10 diventa okay. 15, quella del 21 era, per i contratti liberi rimane tale. Era e rimane 21. La cedolare secca è un'imposta, dicevamo, sostitutiva, perché sostituisce l'IRPEF, sostituisce le addizionali all'IRPEF, quindi sia quella comunale che quella regionale, e anche l'imposta di registro e l'imposta di bollo. Quando è che si sceglie questa esatto, imposta? Quando dobbiamo esercitare questa opzione? Può essere esercitata o... Per esempio stipulo un contratto d'affitto, so che sono pronta ad affittare la mia casa dal mese prossimo ad un inquilino. Allora, in questo caso si può optare direttamente al momento della registrazione del contratto. Sappiamo che i contratti vanno registrati entro 30 giorni dalla stipula presso l'Agenzia delle Entrate. Si può fare per i privati sia col modello cartaceo che online. E nel momento in cui io registro il contratto c'è un modello, il modello RLI si chiama, che ha sostanzialmente una casellina nella quale si può andare a fare un segno di spunta scegliendo la cedolare. Certo. In alternativa, se io avessi un contratto già in essere che ho stipulato senza optare per la cedolare, posso optare in una qualsiasi delle annualità contrattuali successive, sempre usando questo modello RLI, praticamente entro 30 giorni dall'inizio della nuova annualità certo. contrattuale. Quindi attenzione, non l'anno solare, ma l'annualità contrattuale. Quindi... Allora, a proposito di tutte queste comunicazioni, esatto. qual è l'oggetto del desiderio di questa mattina? In merito a quale tipo di comunicazione è intervenuta questa novità di dicembre, sulla quale tu ti sei diverse volte soffermato sul Sole 24 esatto. Ore? Esatto. Qui il problema qual è? Che normalmente l'opzione per la cedolare si dice, ed è così, vale fino a revoca. C'è però un passaggio importante che molti proprietari in passato mancavano e che gli costava l'uscita dal regime agevolato. E cioè che è vero che la cedolare vale fino a revoca, però quando il contratto entra nella proroga, per intenderci un 4 più 4, quando entra nel più 4, quindi al quinto anno, il fisco vuole che l'opzione venga rinnovata con un nuovo modello RLI. Cosa succedeva e succede quindi spesso? Quindi non è una ricomunicazione annuale, no, è no. alla scadenza appunto del regolare del termine più 4, del più 4. Oppure, siccome alcuni contratti poi proseguono anche oltre l'ottavo anno, quando il contratto viene rinnovato nuovamente di altri 4 più 4 anni. Ecco, in questi casi, siccome io come proprietario non devo pagare l'imposta di registro, è piuttosto facile che, non avendo più io altri adempimenti annuali, finisca per dimenticarmi di inviare questo modello RLI. Il mancato invio di questo modello fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale, cioè fino al 3 dicembre scorso, costava l'uscita dal regime della cedolare secca. Quindi io del tutto ignaro continuavo a credere di essere nel regime, invece non lo ero più. Quindi scoprivo che anziché la cedolare avrei dovuto pagare tutte quelle imposte che essa sostituisce. Quindi l'imposta di registro, l'IRPEF e tutto quanto. E così via. Adesso ci dicono che se io ho continuato a pagare la cedolare, quindi ho ottenuto quello che sarebbe un comportamento concludente, dice il fisco, cioè io la mia imposta l'ho pagata convinto di rimanerci, certo, ma non avevo fatto il rinnovo della comunicazione, me la cavo con una semplice sanzione amministrativa di 100 euro ridotti a 50 se intervengo entro i primi 30 vabbè, però giorni. Però qua magari ti vanifica anche tutto il beneficio fiscale. No, è difficile, no. A meno che deve non stiamo essere una piastrella. Esatto. Bravissima, esatto. Vabbè, insomma, ma senti, secondo... È quello che potremmo comprarci e affittare io e te. Esatto. Una piastrella in due. Però, guarda, che in Portogallo ne ho viste di bellissime. Lo sai che le Azulejas, la portoghesi di Lisbona, per cui ce le compreremo anche una piastrella, ma di grandissima qualità. Senti, ma oggi in realtà l'aspetto di cuore che dovevamo fare sarebbe stata la memoria, gli smemorelli. Ce ne sono tanti che hanno dimenticato di comunicare l'opzione, Cristiano? Allora, quanti siano... Non è dato sapere. Non è dato saperlo. Che però... magari lo scopriranno oggi sentendo questa trasmissione. Oddio! Esattamente. Però sappiamo, si può fare una stima, che ogni anno almeno 350.000 proprietari sono tenuti a fare questa comunicazione. Quindi noi sappiamo che le case affittate da privati a privati sono 2.800.000 e valutando appunto le diverse durate dei contratti possiamo sapere che circa 350.000 ogni anno devono fare la, diciamo, certo, avvisare il fisco dell'avvenuta proroga. Benissimo. Altre informazioni preziose da trasferire ai nostri amici contribuenti che hanno la proprietà di una casa data in affitto, che hanno il regime della cedolare secca, insomma, sta finendo il mese di gennaio. Quanto tempo hanno poi, una volta che si accorgono, appunto, per mettersi in regola? Allora, diciamo che... pagando la sanzione, come dicevamo prima? Allora, la sanzione può essere pagata, non c'è una scadenza, nel senso che se io mi attivo entro i primi 30 giorni dalla scadenza che ho mancato, sono 50 euro. Se mi attivo oltre i 30 giorni, sono 100 euro. No, una cosa importante da, se vogliamo ricordarla, per quanto riguarda la cedolare secca, è che si può optare per la cedolare anche se si va a registrare il contratto in ritardo. Questa è una cosa che forse non tutti sanno, nel senso che se il contratto, come dicevamo prima, va registrato entro 30 giorni, se io mi sveglio, per così dire, al 40° giorno, sono ancora in tempo a registrarlo e sono ancora in tempo anche a optare per la cedolare. L'unica cosa che dovrò fare sarà calcolare le sanzioni per il ritardo. Chiaro, certo. Questo sì. Però di tutto questo, Cristiano, si parlerà anche, noi ci torneremo presto su questo grande appuntamento del Sole 24 Ore a Telefisco, a brevissimo. Eh sì, si parlerà a Telefisco, che è il 2 febbraio, giovedì della prossima settimana, esatto. Perché se ne parlerà? Beh, tanto perché è un tema importante, ma perché purtroppo in Italia le leggi non sono mai scritte benissimo. Questa apertura che è stata introdotta con il decreto fiscale ha un po' di punti interrogativi. Ottimo. Primo tra tutti, e speriamo che possa trovare una risposta proprio a Telefisco, la sua decorrenza. Perché vi dicevo prima, la norma di legge nuova è in vigore dal 3 dicembre. Ma se io mi sono dimenticato di inviare il modello RLI, mettiamo a ottobre, sono coperto o no questa apertura? Quindi anche la sanzione eventualmente retroattiva si calcola su quello, ti fa, come dire, temporaneamente perdere questo regime fiscale. Esatto. E come si considera questa condizione, appunto, provvisoria temporanea? Esattamente. Ottimo. Tante questo domande è un punto da... che sarebbe bene, insomma, chiarire in senso favorevole al contribuente, certo. Certamente. Grazie Cristiano, buon lavoro. Grazie a voi. Il grazie nostro voi, uomo della fiscalità casalinga. Noi andiamo a sentire il traffico, sempre se accendi il microfono, che è utile per la radio. Pensavo che tu chiudessi e mi... No. Io voglio il tuo supporto, lo sai, Cristiano, visto che proprio... ieri mi hai mollato, io oggi paghi dazio. Andiamo allora a sentire il traffico. Cuore e denari. Allora, per la rassegna stampa di Cuore, Deborah, parlo di denari. Eccola. Hai visto, sono tornati in una nuova veste. D'altronde da Roma. Ormai siamo un amalgama perfetto. Allora, si aggirerebbe sui 20-30 milioni di euro l'anno lo spreco economico causato da una non corretta modalità di iniezione dell'insulina. Ah, però. E questo errore può costare molto caro al cuore e ai denari. È infatti un rischio per la persona con diabete che non controlla adeguatamente alla malattia e quindi si espone a tutte le possibili complicanze, ma l'errore inevitabilmente pesa anche sulla spesa sanitaria, come ben dimostrano i dati che sono stati presentati all'ultimo congresso di diabetologia. Allora, questo problema ha spinto i diabetologi a sottolineare in un manifesto la necessità di informare e formare adeguatamente la persona con diabete, perché, come si dice, paziente informato, problema evitato. 800 24 00 24 per intervenire in diretta se volete parlare con noi, se avete avuto una diagnosi di diabete, se vivete con, avete un familiare con diabete, ma soprattutto se volete sapere le indicazioni, le regole per prevenire il diabete di tipo 2, una malattia che può essere evitata, e ne parliamo oggi, ma vogliamo anche aggiornarvi come sempre dagli ultimi risultati della ricerca. Di tutto questo parliamo oggi col professor Giorgio Sesti, presidente della SID, che è la Società Italiana di Diabetologia. Buongiorno professore, bentornato e grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti e anche agli ascoltatori. Professore, dov'è l'errore? Partiamo dalle iniezioni di insulina che non vengono eseguite correttamente. Partiamo da lì perché è una delle cose più delicate, anche perché l'insulina, ricordo, è un salvavita, quindi è un farmaco fondamentale. Uno degli errori è quello di fare l'iniezione o nei punti sbagliati. Raccontavamo proprio ieri un caso che è capitato a un collega in cui si faceva l'iniezione dell'insulina o all'avambraccio o alla mano, che è assolutamente scorretto. E l'altro punto è che l'iniezione di insulina deve essere fatta in più punti, nella pancia, nell'addome, nelle cosce, ma non sempre nello stesso punto. Siccome noi abbiamo purtroppo delle persone che devono fare anche 4 iniezioni al giorno per avere una correzione perfetta della glicemia e quindi un controllo metabolico perfetto, se queste iniezioni vengono fatte su tutte sullo stesso punto, si possono formare in quelle zone dei veri e propri, chiamiamoli piastroni di fibrosi, si chiamano in termine tecnico lipodistrofie, e in questo modo l'insulina che viene iniettata sempre nello stesso punto non viene assorbita con regolarità. Conclusione, in alcuni casi sembra che funzioni poco, in altri casi funziona troppo e fa andare in ipoglicemia, e quindi è scorretto fare questa iniezione sempre sullo stesso punto, e basta questa piccola variazione per consentire controllo della glicemia corretto. Professore, come può la persona con diabete che si fa l'iniezione, magari abituata da tempo a farsela, ad accorgersi che sta facendo un errore? Sente sotto pelle qualche cosa di più rigido, di duro, oppure magari si accorge di aver bisogno di più insulina o di non controllare la malattia? Quali sono i segnali che possono avvisarlo dell'errore? Se ne accorgo in due modi. Il primo è che vede comparire stranamente sotto la pelle una zona che è più dura, fibrosa, come se dentro ci fosse qualcosa dentro, e non è più morbida, non c'è la ciccia, diciamo così, il tessuto adiposo sottocutaneo. Allora, quello già è un segno di qua c'è qualcosa che evidentemente si accumula. La seconda cosa è che si accorge immediatamente che, senza aver cambiato nulla, quindi l'alimentazione, l'attività fisica, la dose di insulina, improvvisamente ha delle glicemie molto alte, esatto, oppure ha delle glicemie molto basse, e allora in quel caso deve qualcosa non torna, non ha fatta corretta la posizione dell'iniezione dell'insulina, è scorretta. Allora, il controllo della malattia è importantissimo nei confronti di tutte le malattie, ma in particolare del diabete di tipo 2, e il controllo della malattia passa anche attraverso una maggiore consapevolezza. Quindi poche regole, qualche attenzione da seguire con costanza tutti i giorni, perché professore, come voi sottolineate e dite al paziente, lo stile di vita, l'aderenza alle terapie, anche ai controlli che vengono prescritti dal curante, insieme naturalmente all'abitudine dell'autocontrollo della glicemia, fanno davvero la differenza. Allora, professore, mi dia 3 indicazioni per le persone che ci ascoltano. Che cosa devono assolutamente sapere, che cosa devono rispettare? Parliamo di persone con diabete di tipo 2. Allora, le persone devono sapere, innanzitutto, il diabete è un po' come la pressione alta o il colesterolo alto, cioè una volta che purtroppo è venuta, è una malattia cronica con cui dobbiamo condividere tutta la vita. La possiamo curare molto bene, ma non possiamo guarire, non è un'infezione che con l'antibiotico passa. Quindi, primo, occorre grande collaborazione da parte della persona, che deve essere il vero attore della propria gestione della malattia. Quindi deve essere più virtuoso nel controllo adeguato del periodico della glicemia, deve essere virtuoso ad adesire assolutamente alla terapia e non smettere, errore che si pratica frequente, quando la glicemia torna normale, sospendere i farmaci. Questo è uno degli errori più gravi che si può commettere. E l'altra cosa fondamentale, frequentare il centro per le cure del diabete. Noi abbiamo dei dati italiani bellissimi, infatti in 3 diversi posti, in anni diversi, in cui si è visto che le persone che frequentano i centri per la cura del diabete hanno non solo una migliore qualità di vita, ma si allunga la vita. Letteralmente visitare il diabetologo fa allungare la vita. Ah, questa è bella, l'avete coniata voi diabetologi anche. Sì, sì, frequentare il diabetologo allunga la vita, è bella. Sì, ma perché in realtà, guarda, certo, la banalità, ma sono dati scientifici. No, perché, immagino. Perché che quando si frequenta il centro per la cura del diabete si mettono anche in atto tutto quello screening per la prevenzione delle complicanze, che sono quelle che dannose per la glicemia. Cioè, la glicemia alta di per sé non fa danni, quello che fa danni è che ovviamente questa glicemia provoca dei danni essenzialmente ai vasi, e quindi poi si hanno le complicanze cardiovascolari, l'infarto, l'ictus, la problemi alla vista, eccetera, eccetera, il piede esatto. diabetico. Allora, esattamente, quindi tutte quelle complicanze. Allora, nel centro, dato che sappiamo appunto quali sono le conseguenze, noi facciamo anche lo screening, perché abbiamo la possibilità di bloccare questa progressione della malattia. Certo. E quindi questo consente di avere una migliore qualità di vita e soprattutto prevenire le complicanze e allungare la vita letteralmente. Professore, noi oggi, oltre a parlare di controllo e gestione della malattia, quindi se avete ricevuto e se siete persone con diabete, chiamate 800 24 00 24, avete a disposizione il professor Sesti fino alle 11.30. Vogliamo parlare anche naturalmente di prevenzione, perché il diabete si può prevenire. La ricetta è molto semplice: attività fisica abbinata, sottolineo abbinata, alla dieta. I risultati ci sono misurati, professor Sesti. Quanto uno stile di vita sano aiuta a ridurre il rischio di diabete? Ci sono dei dati molto interessanti anche su questo fronte, li vogliamo ricordare? Sì, allora, per la malattia diabetica, parliamo ovviamente del tipo 2, non quella che insorge dai giovani bambini, dove c'è la carenza di insulina e occorre fare la terapia insulinica, ma il diabete tipo 2, che colpisce il 90% degli italiani, dei quasi 4 milioni di italiani che hanno il diabete, il 90% sono persone che hanno diabete tipo 2. Allora, il diabete tipo 2 può essere prevenuto. Il diabete tipo 2 è prevenuto semplicemente con uno stile di vita adeguato, il che significa più attività fisica. Attenzione, non parlo di attività agonistica, dalla maratona. Non bisogna essere degli atleti, dei supereroi. No, moto. Ecco. Provate a salire anziché prendere l'ascensore, salite i gradini. Già quella è un'attività fisica quotidiana che consente di prevenire il diabete. E ovviamente attenzione alla dieta. Di questo vi daremo la ricetta nel dettaglio, perché abbiamo tempo di parlarne dopo il GR, ma intanto, prima di dare la linea al nostro GR, sondiamo un po' le nostre conoscenze riguardo a questa malattia. Sentite questa scheda, ci sono delle domande, segnatevele e poi dopo il GR chiamateci e misuratevi col professor Sesti. Andiamo. L'obesità aumenta il rischio di contrarre il diabete. Vero o falso? Il rischio di contrarre il diabete è più alto se un genitore ce l'ha. Vero o falso? Il diabete può causare insufficienza renale e cecità. Vero o falso? L'attività fisica regolare non ha alcun impatto sulla prevenzione del diabete e delle sue complicanze. Vero o falso? 800 24 00 24, voi chiamateci e intanto GR e torniamo subito dopo. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspettano domenica 5 febbraio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Cuore e denari. I numeri non li sopporto più. La matematica che mi perseguita. Ovunque vai. Eccoci, siamo tornate, le amiche di Cuore Denari insieme, e a proposito di numeri, oggi facciamo proprio i conti con il diabete. Il numero delle persone con diabete è aumentato in modo significativo, addirittura raddoppiato negli ultimi 30 anni, e si prevede che i numeri continueranno a salire. Si parla, professor Sesti, intanto è ancora in linea con noi, presidente della Società Italiana di Diabetologia, si parla di 600 milioni di persone con diabete nel mondo nel 2030? Sì, questa è la proiezione della International Diabetes Federation, che è una federazione che raccoglie tutte le società scientifiche del mondo, e la proiezione in incremento soprattutto spinta da un fattore alimentare, quindi l'incremento del sovrappeso e obesità, in particolare nei paesi che stanno emergendo, E le cattive abitudini di vita occidentali, il junk food cosiddetto, cioè il cibo spazzatura, che fa aumentare l'obesità, e l'obesità è il fattore che incrementa di più il rischio poi di diabete tipo 2. Allora, praticamente il professor Sesti vi ha già risposto alla prima domanda. Voi candidatevi per rispondere un po' a queste domande con cui sondiamo la nostra conoscenza su questa malattia, e intanto alcune domande da parte dei nostri ascoltatori. Isabella da Isernia e subito dopo Wanda dalla provincia di Trento. Isabella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Da fastidio la radio, la chiudo. Ma la chiuda, poi la riaccenda. Sì, grazie. Allora, volevo gentilmente fare una domanda al professore. Sì. Ho mamma col diabete, con la glicemia, e mia nonna aveva pure lei la glicemia alta. Mm. Io l'ho sempre tenuta nella norma, diciamo, fino a un paio d'anni fa, cioè penso fino a pochi giorni fa. Ieri mi è venuta la cosa di misurare il diabete e ho visto che era 152. Mm. Diciamo subito dopo colazione, però non credo abbia fatto già effetto quel po' di colazione, perché proprio subito dopo. Quel po' di colazione, professor Sesti, avrà fatto effetto. Intanto Isabella è arrivata proprio perfetta, nel momento giusto, perché vogliamo proprio, vero, anche il timing, come si dice in gergo allora, finanziario. Allora, professore, c'è una mamma, una nonna con diabete, questa glicemia che ha controllato Isabella ha un valore un po' sospetto, che deve fare? Partiamo dal caso per dare indicazione agli amici che ci stanno ascoltando. Allora, accanto all'obesità, che è ovviamente un fattore ambientale e che è legato alla cattiva alimentazione e alla scarsa attività fisica, un altro fattore fondamentale è la genetica, cioè la familiarità. Avere un papà, una mamma o un fratello diabetico comporta un rischio, perché i geni che si hanno vuol dire che facilitano purtroppo il rischio della malattia. Quindi tutte le persone che hanno un genitore o un parente stretto diabetico devono fare lo screening della glicemia. Allora lì c'è un problema: la glicemia, perché sia convalidato il valore soglia con cui si fa la diagnosi di diabete, deve essere fatta a digiuno, cioè bisogna fare il prelievo nel laboratorio la mattina a digiuno. E il valore per cui io viene diagnosticato diabete, in cui posso fare diagnosi di diabete, è 126. Se c'è questo valore magico ripetuto in due occasioni, perché la glicemia è anche ballerina, dipende anche dall'attività fisica o da quello che abbiamo mangiato la sera precedente, faccio la diagnosi di diabete. L'alternativa è poter sempre, con un prelievo fatto in questo caso in qualsiasi momento della giornata, ma è sempre meglio fatto la mattina, misurare un'altra cosa che si chiama emoglobina glicosilata, e che è quella quota di emoglobina, quella che circola nei nostri globuli rossi, che viene congiunta chimicamente col glucosio, e quello c'è un valore soglia che è il 6.5%, che mi fa fare la diagnosi di diabete. Nel caso della signora, se l'ha fatta dopo pranzo, non ha una glicemia assolutamente normale, perché noi consideriamo la glicemia normale dopo pranzo 140. Quindi è superiore. Potrebbe essere una fascia di cosiddetto prediabete, cioè di quella fascia grigia, in quella zona grigia in cui non c'è ancora una diagnosi di diabete, ma non è anche normale. In questi casi occorre un'attenta sorveglianza e ripetere l'esame almeno una volta l'anno, perché il rischio è che possa sviluppare il diabete nel giro di pochi mesi. E quindi proprio in questa zona grigia, attenzione, professor Sesti, attenzione, e l'alimentazione, la correzione dello stile alimentare e l'attività fisica, perché le due cose vanno abbinate, potrebbero proprio spostarci da questa zona grigia e far rientrare i valori. È corretto, professore? È esattamente così. Ci sono diversi studi ormai consolidati, anche fatti in Italia, che dimostrano che l'attività fisica, una corretta alimentazione possono, proprio in queste persone che hanno questa forma, brutta parola, di prediabete, quindi non ancora la malattia ma a rischio di diabete, possono far regredire o ritardare l'insorgenza, e quindi diciamo essere in grado di poter bloccare la progressione della malattia. Quando parliamo di correzione dello stile alimentare, di dieta, non sono previste dei grandi sacrifici, delle forti restrizioni, ma a volte bastano delle intelligenti sostituzioni. Voglio citare uno studio condotto dai dietologi del King College di Londra, che viene riportato anche sul portale della Società Italiana Italiana di Diabetologia, che ha evidenziato come sostituire grassi saturi alimentari con quelli polinsaturi, leggi, oli vegetali oppure semioleosi, consenta di rallentare la progressione da questa zona grigia, dal prediabete al diabete. Quali sono le altre indicazioni che possiamo dare alle persone che ci stanno ascoltando e che hanno una glicemia leggermente fuori dai livelli di norma? Professore. Allora, contrariamente a quello che si pensa, che uno immagina che mangio lo zucchero e mi si alza nel sangue, è sbagliato. Immaginario. Nel senso che occorre fare un'alimentazione mediterranea, cioè ecco. Bisogna continuare a fare quello che facevano i nostri papà, mamma, i nostri nonni, che mangiavano in maniera sana. Allora, quello che sono i nemici anche per lo sviluppo del diabete sono i grassi saturi, quindi ovviamente i cibi che contengono grassi animali, molto, ovviamente elevati, e burro. Noi dobbiamo condire con olio d'oliva e quindi già abbiamo fatto fuori... Che è un farmalimento parte... e qua esatto. L'abbiamo fatta. E già una parte l'abbiamo messa a posto. L'altra cosa, dobbiamo ovviamente evitare che ci sono cibi che danno delle quantità di zuccheri che vengono assorbiti troppo rapidamente, ma io in genere faccio le 4 P, pane, pasta, pizza e patate, mentre tutti questi possono essere tranquillamente sostituiti con le farine ricche di fibre. Sì. E con i legumi. Allora, il legume è una grandissima fonte di proteine anche nobili, importanti, è una fonte assolutamente sana e se uno vuole mangiare la pasta, è meglio mangiare la pasta con i legumi, la pasta e fagioli, la pasta e ceci, anziché una pasta condita in maniera grassa ancora di più se per caso aggiungiamo grassi saturi. Ecco, quindi, pasta con la salsiccia, il radicchio magari è buona, esatto. Però è troppo, no, non esatto. Va tanto, meglio una pasta con le lenticchie, io ne faccio una buonissima. Esatto, perché ecco, zuppe, e io la mangio legumi, sempre molto volentieri. L'altro trucco è quello di far anticipare, anche noi siamo abituati a mangiare appunto i primi a base di pasta, è quello intelligente di far anticipare tutto ciò che ha le fibre. Quindi il contorno, cioè l'insalato o la verdura, se uno sì. Lo fa anticipare, lo prende come antipasto, poiché ci sono le fibre che rallentano l'assorbimento, sia degli zuccheri ma anche dei grassi, cosa che non ci fa male anche assorbire di meno, fa sì che il controllo della glicemia e l'assorbimento degli zuccheri nell'alimentazione sia più basso. E questi piccoli trucchi aiutano molto in realtà, ecco. Cioè non sono solo dei fatti diciamo di carattere per l'estetico o per il dimagrimento, ma correggono esattamente anche l'elevazione della glicemia dopo i pasti. Quindi se la glicemia è un po' mossa, la glicemia come ha sottolineato il professor Sesti e ballerina si muove nel corso della giornata, queste sono delle regole, delle indicazioni alimentari molto semplici, tra cui ad esempio mangiare il contorno, la verdura prima del primo piatto, basta invertire l'ordine sì. E il risultato si vede. A proposito di attività fisica, sempre cito uno studio che è presente sul vostro portale, uno studio che ha stimato che utilizzare abitualmente la bicicletta come mezzo di trasporto riduce il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 del 20%. Insomma, professore, questa potrebbe essere anche un'indicazione per così favorire e spingere le amministrazioni a creare delle belle piste ciclabili, perché se è vero che andare in bicicletta riduce del 20% il diabete, più piste ciclabili, meno diabete. E infatti è esattamente questo, non occorrono grandi gesti o grandi sforzi, basta la quotidianità per fare l'attività fisica. La bicicletta, io vedo sempre i paesi in particolare pianeggianti, quindi quelli che riguardano la pianura padana, dove è moltissimo e frequente l'uso della bicicletta, quello è un toccasana sia a tutte le età, perché consente di fare una discreta attività fisica quotidiana, perché il trucco è quello di fare i 30 minuti quotidiani di passeggiata di bicicletta, non di più, quindi non occorre fare particolari sforzi, andare in palestra attrezzate o fare maratone o fare delle gare estreme, ma semplicemente l'attività motoria consente di prevenire, in questo caso non soltanto il diabete, ovviamente per noi il diabete, ma anche malattie cardiovascolari, che anche quello non dobbiamo dimenticare, vanno purtroppo a braccetto con il diabete. Certo. Allora, abbiamo parlato e sottolineato i fattori protettivi. Voglio, professor Sesti, chiederle un commento riguardo ad una ricerca che dice che chi è poco resistente allo stress quando ha 18 anni è destinato a sviluppare più spesso diabete di tipo 2 da adulto, con un rischio maggiore del 51% rispetto a chi non è toccato da stress o dotato di quella che possiamo definire resilienza, ovvero una buona capacità di tollerare e affrontare le difficoltà. Stress in età giovanile mal gestito e diabete di tipo 2. Ci può essere una relazione? È davvero così? Può esserci una relazione, in quanto quando noi siamo sotto stress attiviamo, questo è proprio nel mondo animale, quindi noi siamo uguali a qualsiasi altro animale della nostra terra, noi attiviamo degli ormoni che servono per prepararci alla reazione, che può essere o di aggressione o di difesa, quindi eventualmente o di aggredire o di scappare. Questi ormoni però sono tutti gli ormoni che hanno un effetto di far aumentare la glicemia. E c'è anche una logica in questo, perché quando io devo attivare in una condizione di stress un meccanismo che fornisce ai muscoli, al cuore e al cervello una quantità di energia necessaria a mettere in atto questi meccanismi, ovviamente cosa utilizzo? Il glucosio, che è la fonte più rapida di energia. Allora, tutti questi meccanismi fanno sì che quando io ho uno stress ed è esagerato, anziché avere una reazione fisiologica allo stress, diventa esagerato, e quindi l'eccesso di ormoni che producono questo eccesso di glicemia che serve per mettere in moto questi meccanismi fa sì che è esagerata, e quindi a lungo termine, ovviamente, come tutti i sistemi, dal fisiologico passa al patologico. Allora, e quindi questa relazione è chiara. E un altro fattore di rischio per l'insorgenza e l'aggravamento del diabete dell'adulto, del diabete di tipo 2, è sicuramente il fumo. Professor Sesti, concorda? Sì, allora il fumo sta, oltre a essere un fattore di rischio cardiovascolare importante, quindi è fondamentale assolutamente evitare di fumare, il fumo, si è visto, anche crea dei danni dal punto di vista dell'azione dell'insulina. Allora, la nostra insulina, per agire a livello dei tessuti e quindi fare smaltire il glucosio, ha bisogno di funzionare adeguatamente. Il fumo purtroppo contrasta questi meccanismi attraverso vari processi cellulari e molecolari, e fa sì quindi che l'insulina funziona meno bene. Se l'insulina funziona meno bene, ovviamente lo zucchero, anziché andare nei tessuti ed essere smaltito e consumato dai tessuti, rimane nel circolo. Oltretutto il fumo è anche un fattore di rischio cardiovascolare che, combinato quindi con la glicemia alta, aumenta il rischio esplosivo di direi eventi cardiovascolari nel diabetico. Sì. E allora, in linea con noi abbiamo il piacere di avere il nostro dottor antifumo, il dottor Roberto Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno dottor Boffi. Buongiorno. Ricordo che il dottor Boffi, insieme alla dottoressa Munarini, segue il nostro progetto, il progetto di Cuore Denari, Io Smetto di Fumare, così la raccontiamo anche al professor Sesti, che sarà felice, anche perché, come ha sottolineato, le persone con diabete e anche le persone che magari hanno un rischio di svilupparlo sono veramente invitate, tutti lo siamo, ma a smettere di fumare. Ma dottor Boffi, c'è una ricerca molto interessante che arriva dall'Università di Basilea, che dimostra il rapporto diretto tra l'esposizione continuativa al fumo passivo e un rischio proprio aumentato di sviluppare il diabete di tipo 2. Quindi parliamo anche non solo di chi fuma, ma anche di chi respira il fumo, di chi gli sta accanto. Eh sì, perché già si sapeva da tempo la diretta correlazione tra quanto fumiamo e il rischio di sviluppare diabete, dai fumatori leggeri, moderati, forti fumatori, fino a 57% di rischio aumentato. Però non era mai stato dimostrato che ci fosse una così forte correlazione anche con l'esposizione continuativa al fumo passivo in casa o in ambiente lavorativo. Invece questa ricerca dei colleghi epidemiologi svizzeri su 2.800 soggetti non fumatori ha dimostrato che c'è un rischio aumentato di ben il 50% di sviluppare diabete mellito di tipo 2 anche in chi non ha mai fumato. Quindi un'ennesima dimostrazione di quanto anche il fumo passivo possa danneggiare, in quanto ricordiamo che le sostanze proinfiammatorie, antiossidanti liberate dalla combustione della sigaretta sono più concentrate nel fumo passivo, che è freddo, quindi qualitativamente addirittura più dannoso. Dottor Boffi, e quindi se siete fumatori e cercate magari avete un familiare con diabete, fategli un regalo, smettete di fumare, e il dottor Boffi vi segue nella nostra pagina dedicata Io Smetto di Fumare. Pensavo facesse un regalo, dai, qualche volta. Anche magari un regalo. E noi ci fanno un regalo intervenire in trasmissione. Grazie, eccoci, dottor Boffi. Grazie, ci vediamo. Grazie sulle pagine di Cuore Denari. Banda dalla provincia di Trento e Ornella dalla provincia di Macerata. Tutte donne, viva. Banda, buongiorno. Buongiorno. Per il professor Sesti, lei che cosa vuole chiedere? Allora, io con la menopausa ho avuto un aumento grosso di peso e perciò sindrome metabolica. Poi diabete tipo 2, chiaramente, sono stata in carico alla diabetologia, io ho 68 anni, da circa 10 anni dalla menopausa, con controlli semestrali e praticamente anche il diabete è sotto controllo adesso. Mi hanno diminuito anche i farmaci perché ho fatto dieta, sono diminuita di peso. Si è comportata, ha frequentato il diabetologo, come diceva il professor sì, Sesti, sì, bisogna sì. frequentare ecco. diabetologi che allungano sì, la vita. Però, siccome adesso il mio diabete è sotto controllo, sempre col farmaco, prendo la 2 metformina da 1000 al giorno, la mattina e la sera, e la mia emoglobina glicata è al valore di 47, l'ultimo. Arrivi alla domanda, perché ecco, il tempo sì. corre allora, via. Praticamente non sono più in carico alla diabetologia, sono in carico al medico di base. Volevo chiedere quali sono i controlli da fare periodicamente e con quale frequenza. Grazie. Allora, intanto Vande è una persona informata, una persona con diabete informata e preparata. Ha dato un quadro, ha descritto molto bene il quadro della sua situazione. Professor Sesti? Sì, molto chiara e brava. Brava. Allora, è molto semplice. Esiste un piano nazionale della cura del diabete condiviso da tutte le regioni e fatto dal Ministero della Salute, che prevede una cosiddetta gestione integrata tra il medico di medicina generale e il diabetologo. E che serve per far sì che i centri per la cura, che non sono ahimè molti e quindi bisognerebbe aumentarli fortemente, siano intasati da dei casi in cui invece la malattia è sotto controllo. Come il caso di Vanda. Come il caso della signora. Generalmente la frequenza, però perché ha un diabete ben controllato, la frequenza per il centro per la cura del diabete è annuale. Quindi ogni anno una visitina al centro per vedere che è tutto a posto, soprattutto per lo screening delle complicanze, perché non è soltanto avere sotto controllo la glicemia o l'emoglobina glicata, che immagino la signora periodicamente controlla, ma anche per fare lo screening periodico delle complicanze è necessario andare al centro. Ecco, le ricordiamo quali, che così mandiamo nuovamente un messaggio, le abbiamo anticipate, ma alcuni segnali che la persona con diabete deve tenere in modo particolare sotto controllo, che possono fargli capire che non controlla, non gestendo correttamente la malattia e si espone a delle complicanze che possono essere, come lei ha anticipato, molto severe: cuore, vasi e quindi anche vista, piede diabetico. Sì, allora sintomatologicamente purtroppo le complicanze sono subdole, perché l'unica che si può avvertire è che aumenta la frequenza con cui vado in bagno e possa avere un aumento dello stimolo alla sete, cioè si aumenta la diuresi sì. Perché è un meccanismo con cui perdo glucosio nelle urine. Quello che invece vanno controllate sono lo screening del fondo dell'occhio, e quindi va fatta un esame accurato del fondo dell'occhio. Non è la vista quella che misuriamo per la patente, per capirci, è proprio per gli occhiali, è proprio il fondo dell'occhio, vedere se c'è una retinopatia. Va fatto un controllo nelle urine delle proteine, perché l'altro danno renale che si può scoprire iniziale è la presenza di proteine nelle urine. E poi uno screening in generale dei fattori di rischio cardiovascolari, per cui occorre seguire un elettrocardiogramma e, se ci sono dei dubbi dal punto di vista del cardiaco, eventualmente fare una prova da sforzo, sempre con la misurazione dell'elettrocardiogramma, per vedere che i vasi coronari ci siano a posto e che riesco anche a fare un'attività sotto stress adeguata e che non ho danni dal punto di vista dell'irrorazione delle coronarie. Bastano questi, poi ci sono altre ovviamente complicanze legate alla cura del piede, sì, per controllare molto attentamente, sì, perché lì c'è la neuropatia, controllare se si hanno parestesie, formicoli, piedi sì, freddi, sì, insomma qualcosa, qualche segnale che arriva dai piedi. Soprattutto noi li chiamiamo a calzino o a guanto, perché questi disturbi si hanno perifericamente, quindi mani, avambraccio, se si avverte i formicoli, e piedi e gambe. Se si avvertono questi formicolie può essere che c'era una neuropatia e anche lì va fatto uno screening in un centro per la cura del diabete. Professor Sesti, grazie per queste indicazioni che naturalmente che abbiamo dato per le persone con diabete, ma soprattutto anche delle attenzioni e delle precauzioni per evitare il diabete di tipo 2, quindi speriamo di averlo messo KO, di aver contribuito con questa puntata a così sensibilizzare le persone che spesso conoscono il diabete ma hanno una, come dicono le ricerche, una scarsa percezione del rischio che corrono. Professor Sesti, alla prossima. Grazie, buon lavoro. Grazie tante, grazie a voi tutti. Sono le 11:30. Andiamo alla borsa e poi al grande risico bancario finanziario che si è rimesso in moto in Italia tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. non avete sbagliato trasmissione. Questo è il ruggito del leone. Non so se a Trieste i leoni ruggiscano in questa maniera. Però noi abbiamo riproposto il ruggito del leone perché... Ecco, assomiglia anche un po' a un russamento. Eh no, e invece vero, qua la finanza russa ben poco direi in questo periodo, anzi si è veramente attivata alla grande. Da lunedì non si parla d'altro nel mondo della finanza, cioè dell'attacco sferrato a Generali, il più grande gruppo assicurativo italiano e uno dei più grandi e solidi d'Europa, attacco sferrato da parte del maggior gruppo bancario italiano, Intesa San Paolo. In un'ottica di crescita strategica, ma anche in un'ottica di difesa dell'italianità del leone di Trieste, da mesi suggeriscono molte indiscrezioni nel mirino di altri concorrenti europei di prestigio, la francese AXA e la tedesca Allianz, due potenze di fuoco con peraltro anche molte risorse per potersi permettere senza problemi una scalata di questo genere. Sulla scia allora di questa consapevolezza che altri avevano messo gli occhi a Trieste, sarebbe partita l'iniziativa maturata proprio nel giro degli ultimi giorni da parte di Intesa San Paolo. Iniziativa però subito sterilizzata dalla stessa Generali, che ha prontamente adottato questa controffensiva, appunto acquistando il 3% del capitale della banca italiana per sterilizzarne i diritti di voto grazie ad una complicata normativa, la legge Draghi, delle partecipazioni incrociate. Allora noi oggi non parleremo di questo, ma prendiamo spunto da questa vicenda per capire in quale mercato si sta muovendo tutto ciò. Non è solo gioco di potere e fermento del grande capitalismo finanziario, è anche mettere le mani su un settore che negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente in Italia, ma con ancora larghissimi margini di crescita, come sanno bene i gruppi stranieri che sono sempre molto interessati alle prospettive di sviluppo italiane. Parliamo del settore della banca assicurazione. In realtà, mettendo insieme in Generali Intesa San Paolo, nascerebbe anche uno dei più grandi player europei nel risparmio gestito, ma noi oggi parliamo in particolar modo della banca assicurazione, della banca insurance, per dirla appunto all'inglese, o banca insurance. A molti di voi sarà capitato di stipulare una polizza assicurativa attraverso lo sportello bancario. E allora noi oggi ne vogliamo parlare proprio dal punto di vista del consumatore. Che offerte assicurative troviamo in banca? Che differenza c'è se l'offerta di un'assicurazione la fa la banca o l'assicurazione stessa? E perché questi due mercati si sono così tanto intrecciati negli ultimi anni? Abbiamo chiamato due esperti del settore, intanto la collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, Federica Pezzati, che saluto. Federica, benvenuta, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Peraltro segnalo ai nostri ascoltatori il pezzo sulle pagine appunto di finanza del Sole di questa mattina sul consolidamento che si sta mettendo in moto proprio con questa grande operazione. Federica racconta un po' quali sono i numeri di tutti i grandi gruppi europei e che tipo di ruolo si ricaverebbe qualora nascesse questo colosso nel contesto europeo, proprio questo nuovo ipotetico gruppo Generali Intesa. E poi con noi Pier Giorgio Giuliani, esperto di banche e assicurazioni, presidente di Fla Finanziaria, docente di marketing etico all'Università Europea di Roma, ma in realtà ha un curriculum ricchissimo, lo abbiamo molto delimitato questa mattina, è l'esperto della banca assicurazione. Professor Giuliani, buongiorno e grazie. Buongiorno. Buongiorno. È stato anche manager appunto di lungo corso per tante grandi realtà bancarie, finanziarie, assicurative appunto italiane, e per cui sa bene come è cresciuto questo mondo, quando e come è nato e che tipo di vantaggi anche ha portato, se ne ha portati, tra i consumatori italiani. Allora, intanto voi come sempre, se potete, se volete intervenire, avete l'opportunità di farlo all'800240024 o al 349-238-6666. Federica, comincio subito con te, magari ci descrivi con la tua viva voce quanto scrivi stamattina sul Sole, appunto. Europa assicurativa verso il consolidamento, di che tipo di attore nuovo stiamo parlando che si starebbe affacciando se tutto andasse in porto, ma naturalmente poi le operazioni sono molto complicate e tanti altri si stanno provando appunto a ricavare un ruolo in tutto questo, appunto che tipo di soggetto starebbe nascendo? Secondo... Diciamo la verità, allora, l'Europa finora è stata fuori abbastanza dai merger che ci sono stati in tutto il mondo, e questo è dovuto sostanzialmente anche al discorso di Solvency 2 che ha diciamo impiegato ha preso tutte le forze dei manager per riuscire appunto a far fronte a questa nuova normativa europea. Solvency, che è stata, ricordiamo, che è la Basilea delle assicurazioni, esatto, ecco, requisiti patrimoniali, diciamo che, sempre più alti, sì. Quindi con gli stress test, con nuove regolamentazioni anche regionali, cioè nel senso che ogni paese poi le deve far proprie, quindi immagina un colosso europeo che opera in tanti paesi e tutte le, ma proprio degli sforzi inenarrabili, speriamo che ne valga la pena, sottolineiamo tutti, perché alla fine ben venga la regolamentazione eccessiva, però alla fine poi se questo significa anche poi avere norme troppo rigide, certo, poco adeguate. Il tema fine, è che per i deboli, fragili non c'è più spazio. Esatto, perché ecco, se l'Europa deve per questa regolamentazione poi si trova ad essere il fanalino di coda di tutte le cose che avvengono nel mondo, chiaramente insomma, ecco, è un po' spiacevole. E quindi proprio Solvency poi renderà anche molto più probabile, proprio per via dell'eccessiva grosso impegno finanziario da spendere anche per continuare a essere adeguati alla regolamentazione, diciamo che molti vedono che più che dei grandi matrimoni tra big, dei consolidamenti realizzati anche tramite l'acquisizione di piccole e medie assicurazioni, che se pensiamo anche all'Italia, diciamo che il mercato è molto concentrato, ma le compagnie presenti sul mercato sono tantissime, ecco, uh-huh, anche di bancassurance piuttosto che, quindi inizialmente molti vedono questo scenario. Per quanto riguarda Generali Intesa, è chiaro che se ci sarà un matrimonio bisognerà anche molto vedere cosa farà l'antitrust, perché non dimentichiamo, esatto, perché si aprono problemi di concentrazione non indifferenti. Vita, cioè ormai è un colosso, ha superato appunto anche Poste piuttosto che Generali nel vita, mentre ovviamente se guardiamo tutti gli affari, quindi anche il ramo danni, il Generali è ancora leader, quindi stiamo parlando comunque dei primi due player italiani, per cui ci sono molti punti interrogativi e anche molti analisti nei loro studi li evidenziano chiaramente. Poi ci sono sempre dei paletti che antitrust può imporre, come è successo ad esempio per siamo riusciti a unire Unipol SAI, per dire sono state cedute delle attività al gruppo Allianz, e insomma ci sono sempre le possibilità poi di adeguare la propria rete distributiva anche desiderata dell'autorità che regola la concorrenza. Chiaramente, come è stato anche segnalato dai colleghi esperti e anche da chi ha fatto i primi scoop su questa operazione, c'è in gioco l'italianità, c'è in gioco il fatto che comunque Generali è in pancia buona parte del debito pubblico italiano, sì, e siamo sempre lì le stesse cose che si dicono sul risparmio gestito, cioè se andiamo in mano ai francesi, AXA avrà tutto questo interesse a mantenere tutti questa questi BTP in portafoglio, esatto, non che se li butta sul mercato, poi con lo spread che prende il volo e abbiamo ricadute problematiche, esatto, di altro tipo. Però devo anche dirti, Deborah, che io parlando con gli esperti e con chi segue il settore, dobbiamo sempre fare i conti col mondo e non pensare sempre nel nostro piccolo orticello. Ecco, non è che possiamo sempre rimanere italiani tutta la vita, quindi io non entro nel merito dell'opportunità, eccetera, però insomma anche un po' di sì, diciamo riguardo, la logica della difesa mondo, dell'italianità mondo, per te sta in piedi non e non sta in piedi, no, per rimanere qui, cioè, insomma. Bene. Però non è un giudizio che voglio dare io, no, parlando, no, dicevo, noi parliamo sempre dei big europei, però guardiamo che i big europei rispetto ai big internazionali e mondiali, non dico che siano formiche, per carità, però ecco, non è che siamo proprio dei campioni, no, mondiali. Ecco. Fermati lì. Allora, adesso andiamo invece ad esplorare questo mondo che si mette in moto, quello della banca assicurazione, oltre che quello del risparmio gestito, come funzionano i fondi di investimento, più o meno lo sappiamo, ne parliamo spesso, un po' meno, un po' più low profile invece il tema della banca assicurazione, perché magari anche se ci capita di averne sottoscritta una allo sportello bancario, non ci siamo mai chiesti che tipo di mondo rappresenti tutto ciò. Allora, professor Giuliani, ci fa un pochino di storia. Adesso noi fra due minuti dobbiamo andare a sentire i suggerimenti per il traffico, gliela faccio magari iniziare. Un pochino di storia di questo settore, che tutto sommato è recente per quello che riguarda l'Italia, molto più consolidato invece in altri paesi. Perché una banca dovrebbe fare questo lavoro? Perché la banca vende le assicurazioni, qualche volta confezionate in casa propria, qualche volta distribuisce polizze appunto di società terze? Per quale motivo ad un certo punto le banche hanno deciso di fare anche questo? Per andare a cercare della redditività, diciamo la verità, il problema della redditività delle banche non è un problema che nasce solo oggi, anche agli inizi degli anni 90 c'era questo problema, meno sentito di adesso, ma c'era ancora. Il ragionamento che si fece era: noi abbiamo degli spread molto bassi, parlo di noi banche, per esempio per rinnovare un CCT o un BTP prendiamo lo 0,25, quindi parliamo di frazioni di punto. La vendita di un prodotto assicurativo ha dei margini del 20-30%. se noi riusciamo a vendere prodotti assicurativi facendo risparmiare il cliente e guadagnando più dei margini che abbiamo normalmente, riusciamo a fare un business noi e a creare un vantaggio per il cliente. Questa era l'idea di partenza, diciamo. E partiamo all'inizio degli anni 90, ovviamente con un prodotto molto simile a quello bancario, che era la polizza vita, nelle sue varie forme. Prima la polizza vita tradizionale, un modo che... per accudire anche il cliente, insomma tenerselo stretto con varie e molteplici iniziative di natura ovviamente commerciale, quindi al servizio del cliente a 360 gradi. Sì, sì, anche perché più prodotti vendo al cliente, più difficile diventa per il cliente abbandonarmi. Andarsene, eccoci qua. Certo, ecco. Quindi abbiamo dei vantaggi un po' in vari settori. Quindi i primi sono partite le polizze vita, successivamente si è cominciato a lavorare sul ramo danni. Devo dire che in realtà la prima banca che è partita è il Monte dei Paschi di Siena. Esatto. Sì, con le polizze vita, mentre un'altra piccola banca, piccola che adesso non esiste più, è il Credito Romagnolo, era anzi il Credito Romagnolo, partì circa 4-5 anni prima vendendo prodotti di banca assicurazione danni. Quindi prodotti ritagliati e studiati per il prodotto, per il canale banche, a vantaggio dei clienti nel ramo danni delle polizze sanitarie. Lei pensi che in meno di un anno quella banca riuscì a vendere al 7% dei suoi clienti questa polizza, guadagnando 1 miliardo di lire. Probabilmente all'anno. C'era anche un contesto di fiducia tra banca e cliente un po' diverso magari rispetto a quello attuale, per cui si riusciva anche a penetrare in maniera abbastanza significativa. Come è cambiato poi questo mondo negli anni? Adesso il professor Giuliani ce lo racconta. Intanto ci fermiamo, c'è il traffico, a tra poco. Cuore e denari. La banca assicurazione in Italia, che cos'è questo mondo alla luce anche del grande risico bancario e finanziario che si è rimesso in moto con le mire di Banca Intesa San Paolo su Generali e tutti gli annessi e connessi di cui ampiamente raccontano i giornali in questi giorni. Professor Pier Giorgio Giuliani, esperto di banche assicurazioni, docente di marketing etico all'Università Europea di Roma, abbiamo parlato della nascita di questo mondo, del suo consolidamento. Oggi, andando in banca, oltre al Vita e in molti casi oltre al ramo danni, quali altre assicurazioni ci offrono appunto le banche, e generalmente le producono in casa propria o si servono di soggetti assicurativi esterni o magari di tutto il gruppo? Molto spesso, allora, diciamo che i grandi gruppi hanno delle proprie strutture interne, cioè delle compagnie proprie che producono i prodotti da andare a vendere, li confezionano in casa. I gruppi più piccolini, le banche più piccole invece fanno delle convenzioni con altre compagnie, certo, d'assicurazione per vendere i prodotti, però sempre in questo momento per fortuna ritagliati sul mercato retail delle banche, quindi abbiamo la fortuna che abbiamo dei prodotti standardizzati di buona qualità normalmente che vengono venduti a dei prezzi molto più bassi rispetto ad andare da un agente d'assicurazione, però c'è un però. Eccolo. Allora, stuzzichiamo diciamo un po' i nostri ascoltatori. A cosa devono stare attenti quando ricevono queste proposte? Perché molto spesso, lo sappiamo, i nostri ascoltatori conoscono in particolar modo il mondo dei mutui e sappiamo che soprattutto per la tipologia di mutui che sono stati erogati tanto negli ultimi anni, di durata molto lunga e di importo molto alto, è chiaro che la banca tende a volersi proteggere nel caso in cui il contraente diventi inadempiente e insolvente, e quindi chi fa sottoscrivere appunto una polizza. Poi c'è stato tutto un conflitto su questo tema che poi ricostruiremo. Il suo però cosa si riferiva, professor Giuliani? Però il prodotto è un prodotto standardizzato, vuol dire che può andare bene per tutti o non può andare bene per nessuno, nel senso che o quel prodotto ti si ritaglia bene per te oppure copre le esigenze che pensi di avere, altrimenti è meglio andarsi a far fare un prodotto su misura da un agente d'assicurazione. È come la differenza fra prendere un abito fatto da un sarto, il tailor made, esatto. Oppure andare a comprare un abito in un negozio, certo. Puoi aggiustare la lunghezza del pantalone, puoi sistemare alcune cose, però certo, l'abito è quello, quindi ecco. Tutto bello, insomma, la banca ti vuole servire e coccolare al 360%, naturalmente proponendoti anche la soluzione assicurativa assicurativa, attenzione però che è standard, magari l'assicurazione direttamente ti può fare una proposta un po' più a tua immagine e somiglianza. Esatto. Ecco. E esatto. Questi un po' sono i difetti odierni dell'industria della banca assicurazione, certo, che comunque, come dicevo, è cresciuta ugualmente tantissimo. Federica, volevo ricordare con te la questione che ho citato appena poco fa, proprio per magari ricordarci come è finita. Ci ricordiamo che ad un certo punto alcune autorità, alcuni tribunali si misero di traverso alla questione che le banche vendevano le assicurazioni ai sottoscrittori di mutui perché sollevarono il problema del conflitto di interesse. Se una persona non riesce più a pagare il suo mutuo e stipula un'assicurazione contro questa eventualità, non è che la beneficiaria del risarcimento può essere la banca, certo, deve essere direttamente la persona, allora, in difficoltà. Com'è finita? Allora, prima di affrontare la questione mutui volevo solo puntualizzare alcune cose di quello che abbiamo detto. Cioè, il problema vero secondo me della banca assurance è anche il fatto che in questi anni la polizza è stata venduta, sostanzialmente sono state vendute polizze non necessarie o non così necessarie, non stiamo parlando dei mutui ma del vita, ai sottoscrittori in sostituzione dei titoli, sì, di Stato. Deborah, non possiamo dimenticarci le index linked e tutti i macelli conseguenti, per cui come no, le Lehman Brothers, l'ho richiamata quella vicenda con le poste, sì, ecco, anche questo fatto, ma più che altro tutta la vicenda Lehman, ci sono state un sacco di necessità che IVA si intervenisse per appunto evitare che si distribuissero, le banche a risarcire e a mettere, smettevano i soldi sia le banche che le compagnie che avevano strutturato il prodotto. Quindi in questi anni, diciamo la verità, che sono stati venduti prodotti non assicurativi, protettivi come no, quelli che sarebbero necessari, ma delle polizze vita a contenuto finanziario, e le persone invece, ecco, quando comprano un'assicurazione, visto che le banche intermediano attualmente tra il 60 e l'80% della nuova produzione vita vendendo sostanzialmente polizze finanziarie e non polizze danni vere che servono, questa è una cosa, certo, che è in buona parte attribuibile proprio al Federica, alle banche. Ho due minuti di tempo, ricordiamo, ecco, questa questione cosa, perché, ecco, è diffusissima. Ecco. IVASS è intervenuta imponendo nuove regole, soprattutto questionari sanitari più chiari, evitare polizze rotanti valide in base alla professione del pensionato piuttosto che del lavoratore, e poi soprattutto ha dato la possibilità di recedere contrattualmente dopo la stipula del mutuo entro 60, certo, giorni. E anche, cioè, la persona non è obbligata a sottoscrivere l'assicurazione che ti offre la banca, può dire no grazie e andare da un'altra parte, ecco, esatto, e soprattutto invece la banca spesso lo fa passare come obbligatorio, hai la possibilità di recedere anche dopo che ti hanno venduto il mutuo, e questa, okay, non è una cosa da poco, certo, e soprattutto la banca ti deve avvisare che hai la possibilità di recedere, e quindi questo è un grosso sforzo, e questo ha messo anche in forte difficoltà al settore bancario assicurativo e anche quello dei finanziamenti, perché adeguarsi a queste nuove regole è stato veramente, certo, difficile. E d'altronde bisogna, certo, ecco, bisogna essere trasparenti. Io direi anche che non è assolutamente, cioè, non voglio contraddire l'ospite, però non sempre i prodotti venduti in banca sono più light rispetto a quelli che trovi su internet dalle stesse compagnie che più light sono, cosa intendi? Molto offerta, quindi il sinonimo banca costa di meno la polizza, ecco, sfatiamolo, perché forse era vero all'inizio perché i margini delle compagnie sul canale agenziale erano molto elevati, ma via via le cose sono un po' cambiate. Benissimo. Perché la concorrenza ha fatto bene. Giuliani, tra un minuto devo chiudere, a lei se vuole la controreplica e poi magari ci dia due suggerimenti per i nostri ascoltatori consumatori, le domande da fare alla banca se andiamo là e ci propone l'assicurazione. Cosa fare per essere, allora, sicuri di quello che sottoscriviamo? Velocemente, grazie, non ho niente da replicare perché la dottoressa è stata veramente esaustiva. Io parlavo per grandi linee. Certo. Certo che se andiamo su canali che hanno meno costi, il costo generale si abbassa. Ma detto questo, io direi sul vita andiamo a guardare soprattutto chi garantisce l'investimento. Non sempre è la compagnia che propone il prodotto che garantisce, soprattutto nelle index, talvolta la garanzia del denaro immesso nella polizza è data dal sottostante, cioè dal titolo che c'è sotto. Richiamiamo ancora le polizze index che abbiamo sottoscritto una decina d'anni fa erano agganciate, esatto, ai rendimenti dell'obbligazione Lehman Brothers, poi fallita e con essa le polizze, ecco. Ce ne sono ancora in giro e ne stanno vendendo ancora. ma con altri sottostanti. Certo, ovvio, lì, ma non c'è più. La mia raccomandazione è molto semplice. Intanto controllare tutte le coperture che avete, perché molto spesso in banca vengono venduti i conti correnti con uniti tante polizze assicurative comprese nel costo che hanno veramente una valenza e che è inutile andare a duplicare. Quindi attenzione a cosa si compra. Certo. Secondo, leggere sempre bene le condizioni. Mm-hmm. Le condizioni. Terza cosa, mai firmare subito. Grazie, prima. Grazie, a domani.